Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bellamy di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Forestier entrò nel ristorante e strinse la mano a Duroy con schietta cordialità, come non faceva mai negli uffici della Vie Française. «Le signore verranno insieme», disse. «Mi piacciono queste cenette». Poi diede un'occhiata alla tavola. Spense del tutto una fiammella a gas, bassa come un lumino da notte, chiuse un battente della finestra per evitare una corrente d'aria e scelse un posto ben riparato dicendo «Devo fare molta attenzione. Per un mese sono stato meglio, ma da qualche giorno ho fatto una ricaduta. Devo aver preso freddo martedì uscendo da teatro». S'aprì la porta e apparvero le due giovani signore seguite da un direttore di mensa, il volto nascosto dal velo e circospette, con quell'adorabile aria di mistero che le donne assumono in quei locali dove ogni persona avvicinata o incontrata può essere compromettente. Mentre Duroy la salutava, la signora Forestier lo rimproverò molto di non essersi più fatto vivo con lei. Poi aggiunse con un sorriso diretto all'amica: «Ma capisco, preferisce la signora De Marella a me. Per lei il tempo lo trova sempre». Si cominciò col parlare d'uno scandalo che stava facendo il giro di Parigi. La storia d'una donna della buona società, sorpresa da un amico del marito, mentre stava cenando in una saletta riservata con un principe straniero. Forestier rideva molto dell'avventura. Le due signore affermarono che l'indiscreto chiacchierone era un gran villano e un codardo. Duroy la pensava come loro e proclamò ben alto che un uomo ha il dovere di conservare in tali faccende, attore, confidente o semplice testimone che sia, un silenzio di tomba. E aggiunse: «Quanti doni deliziosi ci riserverebbe la vita se ciascuno di noi potesse contare sull'assoluta discrezione dell'altro. Spesso, molto spesso, anzi quasi sempre, è la paura del segreto svelato a trattenere le donne». E aggiunse ancora sorridendo: «Non è forse vero? Quante donne cederebbero volentieri a un momentaneo desiderio, al capriccio improvviso e violento d'un'ora, a un ghiribizzo d'amore, se non temessero di pagare con uno scandalo irreparabile e con lacrime di dolore una breve e labile felicità?» Parlava con contagiosa convinzione, come se avesse perorato una causa, la sua causa, e quasi avesse voluto dire: «Con me certi rischi non si corrono. Provare per credere». Le signore lo guardavano, entrambe incantate. Lo approvavano con lo sguardo, trovavano ben detto e giusto ciò che andava affermando, confessavano con connivente silenzio che la loro inconcussa moralità di parigine non avrebbe retto a lungo davanti alla certezza del segreto. L'amore rimase al centro della conversazione. Duroy, pur non credendo all'amore eterno, lo riteneva un sentimento durevole, capace di creare un legame, una tenera amicizia, una reciproca fiducia. L'unione dei sensi non è che il suggello dell'unione dei cuori. Ma non poteva soffrire le irritanti gelosie, i drammi, le scenate, le meschinità che quasi sempre accompagnano le rotture. Quando tacque, la signora De Marel sospirò: «Sì, l'amore è l'unica cosa buona che ci sia nella vita. E noi spesso la sciupiamo, pretendendo l'impossibile». La signora Forestier, che stava giocherellando con un coltello, soggiunse: Sì, è bello essere amate». E pareva assorta in un sogno lontano lontano, in pensieri che non avrebbe mai osato dire. Duroy riprese: «Io, quando amo una donna, è come se tutto il mondo sparisse intorno a lei». Lo diceva con convinzione esaltato dalla voluttuosa tavola che stava assaporando. S'accesero le sigarette e Forestier di schianto prese a tossire. Fu un nodo terribile che gli squarciava il petto, congestionato in volto, la fronte imperlata di sudore, soffocava nel tovagliolo. Tutto il suo buon umore era scomparso, terrorizzato com'era dal male. «Torniamo a casa», disse. La signora de Marelle suonò per chiedere il conto. Strinsero la mano ai Forestier e Duroy si trovò solo con la signora de Marelle in una carrozza che rotolava via. Se la sentiva a fianco, vicina vicina, chiusa con lui in quella scatola nera, bruscamente illuminata per un istante dai lampioni a gas lungo i marciapiedi. Sentiva sotto la manica il calore della spalla di lei e non trovava nulla da dirle, assolutamente nulla, con la mente paralizzata dall'imperioso desiderio di stringerla fra le braccia. «Che farebbe se osassi?» pensava. Il pensiero di tutte le frasi grassocce sussurrate durante la cena lo imbaldanziva, ma nello stesso tempo lo tratteneva il timore d'uno scandalo. Anche lei taceva, immobile, rincantucciata in un angolo. Se non le avesse visto brillare gli occhi ogni volta che un raggio di luce entrava nella carrozza, l'avrebbe creduta addormentata. D'un tratto la sentì muovere un piede, un moto, uno scatto secco, nervoso, d'impazienza, o forse di invito. A quell'atto quasi impercettibile, un lungo brivido gli corse sulla pelle, dalle radici dei capelli alle unghie dei piedi, e voltatosi all'improvviso, si gettò su di lei, cercando con le labbra la sua bocca e con le mani la carne nuda. La de Marelle diede un grido, un piccolo grido. Cercò di alzarsi, di dibattersi, di respingerlo, poi cedette, come se le fosse mancata la forza di resistere più a lungo. La carrozza, nel frattempo, s'era fermata davanti al portone di lei e Duroy, sorpreso, non ebbe nemmeno da cercare qualche appassionata parola per ringraziarla, per benedirla e per esprimerle il proprio amore pieno di gratitudine. Tuttavia lei non si alzava, non si muoveva, stordita da quant'era accaduto. Temendo allora che il vetturino si insospettisse, scese per primo e le porse la mano. Uscì dalla carrozza barcollando e senza dire una parola. Duroy suonò e appena il portone si aprì, chiese con voce tremante «Quando la rivedrò?». Con un filo di voce che si udiva appena «Venga domani a desinare da me», bisbigliò lei e scomparve nel buio dopo aver dato una spinta al pesante portone che si chiuse col tonfo d'una cannonata. Consegnò 5 franchi al vetturino e s'avviò a passo svelto, trionfante, col cuore che gli traboccava di gioia. Ne aveva in pugno una, finalmente, una donna maritata, una donna di classe, di gran classe, della buona società parigina. Come tutto era stato facile, inaspettato! Era un po' emozionato l'indomani salendo le scale della signora de Marelle. Come lo avrebbe accolto? E se non avesse voluto riceverlo? Se avesse dato l'ordine di non lasciare entrare nessuno? Se avesse raccontato? Ma no, doveva stare zitta con tutti se non voleva che si capisse intera la verità. Era lui, dunque, l'arbitro della situazione. La servetta aprì la porta. Aveva il volto di sempre. Duroy si tranquillizzò, quasi si fosse aspettato di vederla sconvolta. Le domandò «La signora sta bene?». La domestica rispose «Certo, signore, come tutti gli altri giorni». E lo fece accomodare in salotto. Subito si diresse verso il caminetto per darsi un'occhiata ai capelli e all'abito. Stava aggiustandosi la cravatta quando nello specchio scorse la giovane signora che stava osservandolo, ferma sulla soglia della camera. Fece finta di non averla vista e per un istante si squadrarono a vicenda in fondo alla spera, esaminandosi, spiandosi, prima di trovarsi a faccia a faccia. Duroy si voltò. Lei non si mosse e parve aspettarlo. Lui le si precipitò incontro balbettando: «Quanto l'amo, quanto l'amo!» Lei aprì le braccia e gli si abbandonò sul petto. Poi levò il volto e si baciarono a lungo. Il nostro giovanotto stava pensando: «È più facile di quanto avessi creduto. Tutto va a gonfie vele». E quando le loro labbra si separarono, sorrise senza dire una parola, cercando di porre nello sguardo la carica d'un amore infinito. Sorrideva anche lei, con quel sorriso che nelle donne esprime il desiderio, il consenso, la volontà di darsi, e mormorò: «Siamo soli. Lorin l'ho mandata a pranzo da una sua compagna». Lui sospirò e le baciò i polsi. «Grazie, la adoro». Lei allora se lo prese a braccetto, come se fosse stato il marito, e andarono a sedersi sul sofà, vicini vicini. Duroy avrebbe voluto cominciare la conversazione in modo abile e attraente, ma non trovando le parole adatte, balbettò: «Allora non mi serba rancore». «Zitto», fece lei mettendogli una mano sulla bocca. Rimasero silenziosi, gli occhi negli occhi, le dita scottanti intrecciate insieme. «Quanto la desideravo», disse lui. «Zitto», ripeté lei. Si sentiva la domestica maneggiare i piatti in sala da pranzo, dietro la parete. Lui si alzò. «Non posso restarle così vicino. Perderei la testa». L'uscio si aprì. «La signora è servita». E lui porse il braccio con gravità. Pranzarono uno di fronte all'altro, guardandosi e sorridendosi senza posa, preoccupati soltanto di se stessi, tutti immersi nel soave incanto d'una tenerezza incipiente. «Quando potrò vederla proprio sola?» mormorò allora Duroy, «per poterle dire tutto il mio amore». Chinatasi al suo orecchio, lei sussurrò: «Verrò a casa sua uno di questi giorni a farle una visitina». Lui sentì una vampa di rossore salirgli al viso. «Veramente, a casa mia, vede, è un luogo molto modesto». La giovane signora sorrise. «Che importa? Vengo a trovare lei, mica la casa». Una scampanellata li fece sussultare e di scatto si scostarono l'uno dall'altro. «Deve essere Lorin», mormorò lei. Comparve infatti la bambina che, dopo la prima sorpresa, si precipitò di corsa incontro a Duroy, contenta matta di vederlo, battendo le mani e gridando: «Oh, bel ami!» La signora de Marelle si mise a ridere. «Toh! Bel-Ami! Lorin l'ha battezzato! È un bel soprannome! Dice tutta la nostra amicizia! La chiamerò anch'io, Bel-Ami!» Per 3 settimane di seguito, ogni 2 o 3 giorni, talvolta di mattina, talvolta di sera, Duroy ricevette così la signora de Marelle. Un pomeriggio, mentre stava aspettandola, un gran baccano per le scale lo costrinse a farsi sulla porta. S'udivano gli strilli d'un bambino. Una voce furibonda, una voce d'uomo, urlò: «Ma cos'ha ancora da sbraitare quel moccioso?» rispose la voce stridula ed esasperata d'una donna. «Quella sporca sgualdrina che se la fa col giornalista di su! Ha fatto cascar Nicolà sul pianerottolo! Ma guarda se si devono lasciare in giro su di ciumi simili che non badan nemmeno alle creaturine che son per le scale!» Duroy, sconvolto, si ritrasse, avendo udito un rapido fruscio di gonne e un passo precipitoso su per la rampa. Quasi subito sentì bussare alla porta, orora chiusa. Aprì e la signora de Marelle irruppe nella stanza trafelata, sbigottita, le mancava il respiro. Finché, calmatasi un poco l'emozione, diede libero sfogo fuor di sé al proprio sdegno. pretendeva che lui scendesse immediatamente, che si battesse, che li ammazzasse. Duroy continuava a ripetere: «Ma è gente del popolo, sono dei cafoni. Pensaci, c'entrerebbero di mezzo le guardie. Potresti essere riconosciuta, arrestata, rovinata. Meglio non compromettersi con tipi simili». Un'altra idea le attraversò la mente. «E come faremo adesso? Io mica posso tornarci qui». «Ma è semplicissimo, cambierò casa». «Già, ma s'andrà per le lunghe», mormorò lei. Poi, d'un tratto, balenatale una soluzione e subito rasserenata: «No! Ascolta, ho trovato. Lascia fare a me. Tu non ti impicciare. Ti manderò domattina un bigliettino azzurro». Chiamava bigliettini azzurri i telegrammi chiusi che circolano in Parigi. Sorrideva adesso, entusiasta della propria idea, che però non voleva rivelare, e s'abbandonò a mille follie d'amore. Ma com'era agitata nel ridiscendere le scale, appoggiandosi di peso al braccio dell'amante, tanto le si piegavano le gambe. Non incontrarono nessuno. Poiché si alzava sempre tardi, l'indomattina lui era ancora a letto quando, verso le 11, il fattorino gli portò il telegramma promesso. Duroy l'aprì e lesse: «Appuntamento stasera ore 5, Rue de Costantinople 127. Fatti aprire, appartamento affittato dalla signora Duroy. Baci tua Clo». Alle 5 in punto, Georges entrava dal portinaio di un grosso stabile, tutto d'appartamenti ammobiliati, e chiese: «È qui che la signora Duroy ha affittato un appartamento?» «Sì, signore». «Le dispiace accompagnarmi?» La camera era così angusta che il letto bastava ad occuparne tre quarti. Preoccupato e scontento, Duroy stava pensando: «Mi costerà un occhio un appartamentino così. Dovrò indebitarmi ancora. Bell'idiozia ha fatto». La porta si aprì e Clotilde entrò come una ventata, con gran fruscio di vesti, a braccia aperte. Era entusiasta. «Non è carino, Di? Non è carino? E niente scale da salire. È sulla strada, a pian terreno. Si può entrare e uscire dalla finestra senza essere visti dal portinaio. Come potremo amarci bene qui dentro?» Duroy la baciava freddo freddo, non osando far la domanda che gli saliva alle labbra. «Avremo una chiave per uno, oltre quella lasciata in portineria, casomai ci scordassimo la nostra. Ho preso in affitto per 3 mesi, a nome tuo naturalmente, perché non potevo mica dare il mio». Duroy chiese allora: «Mi dirai la spesa, no?» «Ma è già pagato, tesoro», rispose lei con semplicità. «Allora dovrò pagar te», riprese Duroy. «Ma no, cocco mio, tu non c'entri. È una piccola pazzia che ho voluto fare io». Lui fece finta d'aversene a male. «Ah no, perbacco, questo non lo permetterò mai». Avvicinatasi supplichevole e posategli le mani sulle spalle: «Ti prego, Georges», gli disse, «sarò così felice, ma così felice, se il nostro nido rimarrà mio, tutto mio». Lo supplicava con gli occhi, con le labbra, con tutta l'anima. Duroy si fece pregare, opponendo gesti di sdegnato rifiuto, ma finì col cedere. Anzi, gli parve cosa giusta, dopo tutto. Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.